Oggi assistiamo a una situazione per cui ci sono 15.000 detenuti, una fetta consistente della popolazione detenuta che è appena inferiore a 3 anni. E quando sappiamo, chi si occupa di questo settore sa bene, che con pene inferiori a 3 anni è possibile avere un affidamento ai servizi sociali, è possibile avere una misura alternativa alla detenzione. A Roma dal 21 al 23 ottobre scorso c'è stata la terza assemblea nazionale del volontariato giustizia. Il volontariato giustizia è un'organizzazione che raccoglie a livello nazionale quasi tutte le associazioni di volontariato, circa 600 associazioni di volontariato penitenziario, per un totale di 7.000-8.000 volontari. Ogni anno, e quest'anno è il terzo anno, si fa questa assemblea e ci si incontra appunto e si cerca di dare un indirizzo politico all'attività di tutto il volontariato, ma anche di esserci, di contare per quanto possibile nel rapporto con le istituzioni. Credo che la cosa più interessante che è uscita è stata una proposta alternativa rispetto agli investimenti in materia di edilizia penitenziaria. Con un recente decreto il Ministero della Giustizia ha destinato all'edilizia penitenziaria in maniera più specifica alla costruzione di 13 nuove carceri la somma di 320 milioni di euro. La conferenza ha fatto propria una proposta che è venuta appunto da alcuni membri ed è stata discussa in assemblea, che una proposta in questo senso: con 320 milioni di euro si possono fare tante cose sul fronte della prevenzione della devianza e del reinserimento delle persone detenute. Invece di costruire le carceri e quindi di aver bisogno poi anche degli agenti per farle funzionare, con questa cifra si potrebbero assumere ben 2.000 operatori del reinserimento, quindi educatori, assistenti sociali, psicologi, magistrati di sorveglianza. 2.000 persone invece di creare con le 13 nuove carceri all'incirca 2.000 posti branda, quindi 2.000 posti per nuovi detenuti. In secondo luogo, sempre con la stessa cifra, l'abbiamo divisa in 3 tronconi, quindi assistenza al reinserimento, quindi l'assunzione di 2.000 operatori, incentivi all'occupazione. Con una parte di questa cifra si possono dare incentivi a 10.000 diversi soggetti che possono essere cooperative, che possono essere imprese private, per l'assunzione di altrettanti detenuti. Quindi in forma di borsa lavoro, di sgravi fiscali, si otterrebbero 10.000 posti di lavoro per degli ex detenuti o dei detenuti in misura alternativa. Non è finita, si possono creare 5.000 posti letto sempre per gli ex detenuti, perché abbiamo scoperto che uno dei problemi più gravi per chi esce dal carcere, accanto a quello del lavoro, è quello dell'abitazione. Circa il 30% dei detenuti quando esce non sa dove andare ad abitare. Quindi noi abbiamo proposto e chiediamo alle forze politiche, come Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, una cosa di questo genere: risparmiate i 320 milioni di euro per costruire queste nuove carceri, spendeteli per assumere operatori che assistano i percorsi di reinserimento, per creare posti di lavoro, per creare posti letto, per creare posti in cui le persone che vengono scarcerate possano dormire e possano iniziare un percorso che sia diverso da quello della recidiva, che sia dal necessario quasi ritorno alle attività illegali per motivi di disperazione.